Papu, ma se una volta quando venite sostituiti usciste col sorriso, apprezzando di far entrare un compagno che lavora come te, come tu hai il desiderio di continuare, non sarebbe meglio? Sì, sì, 100%. Io gli ho dato la mano al mio compagno, sempre con rispetto. Tu sei stato giocatore, sei stato... Siamo tutti egoisti. Beh, ma possiamo vedere. Poi sono 10, sono il capitano, se non mi incazzo io, chi si incazza? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Va infatti sul suo palo, ma prende la traversa Lukaku e sono due. 0-0, due punti in classifica, adesso due volte il Real Madrid con cui dovrà giocarsi il passaggio del turno. La squadra ha giocato con la giusta intensità, con il giusto piglio da grande squadra. Abbiamo fatto la partita fin dall'inizio, non siamo stati fortunatissimi, abbiamo avuto delle occasioni, ecco, per far gol, meritavamo di vincere. Però al tempo stesso lascia la consapevolezza che ripeto, siamo sulla strada giusta. Palo sul destro, fatto il tiro, rete, gol fantastico, Zapata demolisce la difesa dell'Ajax. Subito dopo il gol abbiamo avuto un momento un po' così di incertezza, ma anche il primo tempo è stato molto buono, solo che abbiamo sfruttato meno le opportunità che si creavano, che è lo stesso che poi è stato nel finale della partita. Però devo dire che i ragazzi sono stati straordinari, perché hanno giocato una partita molto difficile con una squadra velocissima e molto tecnica, e comunque averla rimontata è un grande merito. Da parte del fatto che Papu Gomez è capitano di tutti noi, l'abbiamo sentito nella intro con Capello ieri sera su Sky, Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato e Radio Twitti Pierluigi Pardo. Si è dedicato ai 1449 gol, soltanto virtuali e teorici, in campo questa sera, visto che Cristiano Ronaldo non ci sarà della sfida eterna. Ripeti il numero? 1449. Ma dai! Eh sì, 1400. vuoi qualche dettaglio in più? Te li do, c'ho tutto. Ho preparato tutto, però posso dire 742 di Cristiano Ronaldo, 707 di Messi, questo lo possiamo dire. Sappiamo che ovviamente Cristiano non fa parte della gara, sappiamo che è anche molto arrabbiato, perché insomma rimanere fuori è ovviamente complicato, ma al momento è quello che è, ed è la partita, ne parleremo penso lungamente. Fra due grandissime squadre che vivono una fase di riforma, di cambiamento, con novità in panchina, con novità in campo, con dei giovani interessanti. Novità nella stanza dei bottoni, ne parliamo poi con Filippo Mariarici. Novità nella stanza dei bottoni, ne parleremo sicuramente, quindi insomma questo aggiunge ulteriore incertezza secondo me a questa serata. Peccato ovviamente che stasera i gol in campo saranno soltanto per quanto riguarda quei due, 707 e non 1449, ecco. Vabbè, sarà per la prossima volta, non ti preoccupare, sì. Intanto il tassametro corre, ma perché vedete la mia fortuna, invidiatemi per favore, grazie, invidiatemi, perché io posso parlare con le voci che mi raccontano la sera la Champions League, perché oggi so a Pierluigi di farti cosa gradita nell'aver convocato Riccardo Capocciò Trevisani. Il capoccione sono io, lui è pestacchiotto. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno capoccioni, buongiorno conduttori. Bene. Sì, che ieri sera non ha raccontato nemmeno un gol, perché non capita spessissimo. Anzi, un risultato totalmente fuori moda, direi. Per questo mi piace anche. Senti, non mi va proprio di fare l'ufficio difesa dell'Inter e di Conte, che non ne hanno bisogno, però io mi allineo con le sue parole. Guarda che sembra assediato nel fortino, perché va in trasferta in Champions League, sbagli il possibile e anche l'impossibile. Handanovic, il tuo portiere, senza voto, 0-0, girone incasinato, non mi sembra sia tutto da buttare, Ricky. Non è da buttare la classifica. Però secondo me, se vogliamo fare un'analisi di queste prime 5 partite di campionato e 2 di Champions League, delle cose le possiamo dire. Mm-hmm. Possiamo dire che la migliore Inter dell'anno l'abbiamo vista nei 10 minuti commentati dal Capoccione contro la Fiorentina, che stava giocando con una difesa a 4. Sì. Possiamo dire che ci sono degli equivoci abbastanza evidenti e delle fissazioni che potrebbero essere cambiate. Possiamo dire che il suo portiere prende Sepù perché gli avversari non hanno attaccanti, e tre centrali con avversari senza attaccanti non servono a niente. Possiamo dire che se Eriksen lo pensate ogni volta all'ottantesimo, è pure normale che gli girino le scatole. Poi lui entra male per conto suo. Però perché in nazionale fa un gol a partita e nell'Inter fa schifo ogni partita? Io mi faccio un sacco di domande. Detto che per me l'Inter ha una rosa per cui può vincere il campionato e passare in carrozza in un girone in cui Real Madrid sembra il Getafe, io mi aspetto di più. Con un aspetto di più dalla Juve di Pirlo, con un aspetto che Gasperini non cambi 7 giocatori contro la Sampdoria, con un aspetto che Fonseca non ne cambi 10 con lo Young Boys. Non è che è un processo a Conte. Secondo me è una discussione generale di calcio che riguarda anche Conte, perché è vero che Lautaro sbaglia un gol a porta vuota, ma è vero pure che è l'unica occasione di 45 minuti con una squadra ferma nella sua metà campo. Esiste un problema Lautaro, Ricky? Secondo me, se facciamo un'analisi di 2 settimane fa, c'è Lazio-Inter, sempre col Capoccione, c'è Inter-Fiorentina, sempre col Capoccione, e c'è Benevento-Inter, per cui parliamo di 3 gol in 10 giorni. Il Capoccione non c'è. Parliamo di 3 gol in 10 giorni per la Roma Martinez, consecutivi, belli, bellissimi anche nel caso di Roma, e pesanti. E nelle varie successive ha fatto schifo, ma si può dire, ma però non vorrei, come nei 3 gol consecutivi, il palo contro il Gladbach, sempre col Capoccione, che è una grande giocata. Poi alla fine il destino è anche appeso, diciamo, al centimetro più a sinistra o al centimetro più a destra. Io penso che sia un giocatore ovviamente dal grandissimo talento ancora un po' discontinuo, e la vera domanda dei prossimi anni, parlo proprio in generale, provo a volare un po' più alto rispetto a quella che è l'attualità legata alla carriera di Lautaro, è se troverà la continuità per diventare, perché il talento secondo me è un talento da primissimi. Il vero tema è la continuità, per capire se lui riuscirà a essere un po' più continuo di quello che è. Poi all'inizio della stagione credo che mai avesse segnato, vado a memoria con gli appunti da telecronista, ma ne sono praticamente certo, mai avesse segnato 3 partite consecutive in Serie A, e l'ha fatto appunto all'inizio di questa stagione, come ricordava giustamente Riccardo, fra Fiorentina, Lazio e Benevento. E quindi cioè, non è un inizio negativo. Diciamo che la differenza rispetto a Lukaku è una differenza direi quasi caratterial filosofica. Cioè, Lukaku è uno che anche nella peggiore giornata ti dà sempre il fritto, no? Fa tutto per la squadra, combatte, lavora. Lautaro meno. Lautaro tende in alcuni momenti a rastrarsi. Il suo 2020 non era stato, al di là ovviamente degli stop della pandemia, non era stato facilissimo. No, certo. A un certo punto era arrivato credo a 3 gol in 18 partite, cito sempre a memoria. Poi ha dei colpi abbaglianti. La sfida di Lautaro è la continuità di rendimento, cioè riuscire a diventare un giocatore che su 10 partite non ne fa 6 bene e 4 le sbaglia, ma che ne fa 8 bene e 2 le sbaglia. Ecco, per capire. E sugli appunti del professor Trevisani riguardo all'Inter, che cosa sottoscrivi? Ma allora, se all'inizio del dopo il sorteggio, al momento della diramazione del calendario, ci avessero detto 2 punti dopo queste 2 partite con il Real Madrid ancora da affrontare, probabilmente nessuno avrebbe firmato. Poi in realtà le gerarchie del girone, e lo dimostra anche la partita del Borussia di ieri sera, è molto più complesso, è molto più alternativo rispetto a quello che potevamo immaginare. Io credo che l'Inter vista ieri non possa non crederci, perché ha messo sotto, soprattutto nel primo tempo, lo Shakhtar e tutto sommato anche contro il Borussia, con 1000 infortuni e un sacco di problemi, poteva anche portarla a casa. Quindi io credo che l'ottimismo ci voglia. Certo, la Champions non sono 38 partite, sono 6, e quindi il margine di errore è diverso, cioè i punti che perdi pesano di più. Sì. Insomma, io però penso che Conte non abbia bisogno della nostra difesa e non si interessi neanche delle nostre critiche. Ma se sei l'allenatore, 6 volte più pagato del secondo in Serie A, io non mi aspetto che Perin scelti a fare la seconda punta. non mi aspetto che restino tre centrali 90 minuti contro nessun attaccante, non mi aspetto che Eriksen venga utilizzato come se fosse un primavera, non mi aspetto che l'Inter faccia fatica tutte le partite a giocare a calcio, non mi aspetto che Perisic faccia tutta fascia quando si è dimostrato negli anni che non è uno buono a fare tutta fascia, e c'hai Darmian, D'Ambrosio adattabile, Young, Kolarov e non deve giocarci Perisic. Non mi aspetto un sacco di cose, ma arrivati a capire che Bastoni, De Vrij è un terzo continente a scelta, come si diceva a Risico, è buono per non prendere gol ed evitare di prendere due a partita come c'è a Benevento, Fiorentina, eccetera, eccetera, con Kolarov, gente a caso. Cioè, ci sono delle gerarchie. L'Inter è una squadra fortissima, e sono che vanno messi in campo quelli giusti. Sì, è difficile, sì, però aspettarsi anche che dicevo, difficile aspettarsi anche che Conte diventi un po' meno integralista rispetto a quello che è, perché non ha dato segnali di voler abdicare da quelle che sono le sue idee. E però perdonami, su questo ti posso obiettare? Certo. È arrivato Conte e Perisic è andato al Bayern Monaco, sì, che nel 3-5-2 non poteva giocare. Torna Perisic e gioca tutte le partite. Quindi secondo me invece alcune cose Conte le sta cambiando, sta cercando di dare un gioco alla squadra, di renderla più produttiva, di mettere questo trequartista quando è palese col 3-5-2 l'Inter è molto più equilibrata piuttosto che col trequartista, tant'è vero che poi siamo arrivati al trequartista Barella, che non è un trequartista ma è un incursore, una mezzala adattata perrottianamente a fare il lavoro di centrocampista offensivo. Quindi secondo me ci sono tantissime cose che lui sta provando a fare, solo che sempre secondo me non sono quelle giuste. Pier? E torniamo un po' al ragionamento che facevamo proprio nel post partita di Inter Borussia con Crosetti l'altro giorno, cioè io credo che così come il margine di Lautaro sia quello di diventare più continuo, la sfida per migliorarsi, perché la vita è tutta un esame, per Antonio Conte sia quella appunto di avere un po' di curiosità in più, un po' di curiosità e un po' di coraggio in più in certi momenti, fermo restando che poi quando io gli ho fatto la domanda, e mi sembra esempio perfetto Riccardo, nel post partita di Lazio-Inter, perché c'era stato quel momento che l'Inter aveva l'uomo in più e quindi poteva realmente cambiare il proprio modulo, e lui ha detto che comunque nella testa dei giocatori secondo lui sono più le negative delle positive, sono più i costi dei benefici nel cambiare modulo. Secondo me il tema per quanto riguarda Conte rimane quello, cioè rimane il fatto che lui è sicuramente bravo nel martellare ripetitivamente e nell'allenare su alcuni concetti fondamentali i suoi giocatori, ed è bravissimo nel fare questo, la sua carriera lo dimostra. In qualche circostanza, per fare un ulteriore salto di qualità, serve lo spariglio, serve il piano B, serve l'idea alternativa, serve anche in certi momenti una dose extra di coraggio rispetto l'anno a quello scorso, che Pier, la propria comfort zone. L'anno scorso Conte ogni conferenza ha ribadito e battuto sul fatto: siamo pochi, siamo corti, serve gente. Per un anno è andata avanti questa cosa. Adesso non può più dire. Oggi l'Inter può mettere a destra Hakimi, D'Ambrosio, Darmian, spostare i giocatori come vuole, spostare il sistema di gioco. C'è gente che faceva il titolare l'anno scorso come Pesino, che fa il massaggiatore, perché ce ne sono talmente tanti a centrocampo che non ce n'è bisogno. Allora, io credo che questo problema non ci sia più, e che però quando ne hai 15 è difficile sbagliare la formazione, quando ce n'hai 25 è un po' più facile. Senti, mi piacerebbe vedere Hakimi, Skriniar, De Vrij e Bastoni però a sinistra, o Damiano, D'Ambrosio a sinistra, anche a 4 dietro perdonami, Nainggolan, Barella, Vidal mezzo o Brozovic, trequartista Eriksen e le due punte, 4-3-1-2. Vorrei vedere l'Inter 5 partite così e poi vediamo se è meglio o peggio di quella che stiamo vedendo, perché no, in quei 10 minuti penso. Inter-Fiorentina, e non sempre c'è Iachini che ti regala la partita come Inter-Fiorentina, l'Inter ha fatto in 10 minuti quello che non aveva fatto in 80 e che raramente abbiamo visto anche negli altri 12 mesi, tranne fino a Siviglia-Inter, dove comunque avevamo visto un'ottima Inter nella cosa col 3-5-2, con delle idee fisse, senza derubricare a invenzioni o altre cose. Sì, io penso che sia vero, penso che sia vero. Anch'io vorrei vedere il trequartista, cioè anch'io vorrei vedere Eriksen. Insomma, non so se senti la radio tutti i giorni con la stessa attenzione con cui guardi a tre quarti delle partite, però insomma lo ripetiamo quasi tutti i giorni. Secondo me alla fine è una win-win quella Eriksen Conte, cioè io non mi arrendo, e secondo me l'Inter non deve arrendersi all'idea dell'incompatibilità tattico-caratteriale tra il danese e la squadra, perché questo è un giocatore da 600 presenze in carriera, che ha fatto il leader in tantissimi posti, che ha qualità, che ha talento e che veramente rappresenta un'arma fondamentale per i nerazzurri. Quindi prima di alzare la bandiera bianca e dire non ce la possiamo fare, come diciamo noi a Roma, io proverei ancora mille altre volte. E credo anche, però lo dico perché secondo me è oggettivo, che l'Inter di questa prima parte della stagione abbia avuto innanzitutto il Covid, che l'ha condizionata più di altre squadre, altro aspetto, ha una rosa più profonda, ragione Riccardo, e questo secondo me spiega in qualche modo anche la sostanziale serenità e cambio di passo anche di comunicazione di Antonio Conte, che secondo me è più tranquillo rispetto a un anno fa, perché sa che alla lunga, in una stagione così complicata, così intensa, ha la rosa per poter arrivare in fondo. Quindi nel medio periodo, alla fine, forse ha ragione lui. Sicuramente in questo momento, in alcune partite, la domanda ce la facciamo tutti: perché non cambiare un po', perché non provare, perché non uscire per un attimo dalla comfort zone in certe partite dove hai veramente la possibilità di provare a sperimentare qualcosa di diverso, magari perché non si sente realmente in difficoltà, oppure perché percepisce al contrario, percepisce la difficoltà e dalla comfort zone non ha voglia di uscire. Vorrei fare, prima di salutare Riccardo, invece un passaggio sull'altro nerazzurro, cioè l'Atalanta, che ieri guardavo primo tempo, in quel primo tempo, che ne dica Gasperini, c'è qualcosa che non mi convince. È stata messa sotto, al di là dei due gol, dall'Ajax, con le sue stesse armi, perché Ajax e Atalanta parlano più o meno la stessa lingua, però mi sembra meno intensa, meno cazzuta del solito. Vado io? Sì. Allora, io sono molto d'accordo su quello che hai detto. Il primo tempo è stato inquietante, però sapevamo che era un avversario forte, questo bisogna pure dirlo. Ma a me non è stato inquietante il primo tempo in senso assoluto, perché ho sempre pensato può finire come Atalanta-Lazio dell'anno scorso, si ribalta e andiamo 3-2. Certo. Però viene dopo Atalanta-Sampdoria e viene dopo Napoli-Atalanta. E tre volte in quattro partite, tolto Midtjylland, in cui vedo l'Atalanta in così grande difficoltà, onestamente forse non succedeva da prima che Petagna segnasse quel gol al Napoli, che ha cambiato la carriera di Gasperini e la storia dell'Atalanta, perché dal mio punto di vista sono abituato a vedere una squadra che mi ricorda una tigre su un corpo morto, che ti uccide, che ti devasta, che ti ammazza, e non ho visto quello, non l'ho visto né dal punto di vista fisico né dal punto di vista mentale, e per questo ero molto preoccupato. Bravo. Però se mentre Napoli-Atalanta ha una spiegazione, e cioè Gattuso e Osimhen, e quindi la Gattuso e Osimhen, lo dico in due parole, così la derubrichiamo a scivolone. Io dico che è giusto che Gasperini si intigni a recuperare Ilicic, perché Ilicic è il giocatore più di classe della squadra, ma non è che per recuperare Ilicic possiamo andare in vacca campionato e Champions League, perché poi dopo recuperare è complicato. Quindi va bene Ilicic, ma non Ilicic più altre sei riserve, perché come per Young Boys Roma è quel primo tempo da film dell'orrore, se tu ne cambi 10, Juan Jesus, che non gioca da 7 mesi, fa fatica a regalarti una prestazione di alto livello. Ilicic, che non gioca da 7 mesi, se levi Zapata, Murier, Freuler, Gosens, Atebur, Romero e Toloi, fa fatica a vedersi una buona Atalanta, senza considerare che la Sampdoria è una squadra forte e rognosissima, quindi non era neanche l'avversario buono per il turnover. Chiudo sull'Ajax dicendo, l'Ajax è un avversario molto scomodo, però c'è il rischio un pochino di pensare, tanto in qualche modo la ribaltiamo. Sono molto curioso di vedere invece Atalanta-Liverpool, perché Liverpool è una squadra in questo momento in difficoltà, e l'Atalanta secondo me con Liverpool entra in campo in versione tigre che prova a sbranare l'avversario. Sì, e deve fare punti se vuole blindare la qualificazione. Alla fine il risultato ieri non è neanche male. Su Ilicic, cioè, secondo me ci sono dei segnali di crescita, ma sono d'accordo sul fatto che non debba essere... Ilicic è un mezzo, non è un fine. È un mezzo di questa squadra, no? Favoloso, meraviglioso, perché sì, però ragione Riccardo, devi lasciarlo lì, sì, perché appunto, non puoi sperare che ti dia quello che ti dà prima, appunto, adesso gli devi dare possibilità, e secondo me ieri abbiamo visto anche dei segnali di ripresa. L'intensità non è quella della migliore Atalanta, è quello il punto. Da tigre a un bel gattone, ragionando in un senso un po' più generale. L'Atalanta, diciamo, del post lockdown ci aveva dato la sensazione di essere una squadra capace di acquisire un'ulteriore qualità, un po' più di gestione. Non sarà mai una squadra che gestisce le partite, non sarà mai una squadra che sarà in controllo, sarà sempre una squadra capace di balzi meravigliosi, d'umore, di momenti incredibili, proprio di orgasmo calcistico, e poi magari meno brava nel gestire. Però quello che noi abbiamo visto dal lockdown in poi era una squadra che cominciava ad avere un po' di più questa qualità, che mi fa questa pensare questa in malizia. Questa pazzia di stagione l'Atalanta deve avere in testa lo scudetto, è per quello che mi sorprendo nel vedere sì, una sì. partita come quella e contro la Sampdoria. Sono completamente con te su questo, per questo sono molto contento, perché è un campionato bravo. Così strano in cui io metto dentro Atalanta, Napoli, dico la verità, cosa che pensavo di non dire un anno fa, pure Milan, perché Milan è una squadra molto forte e se Ibra tiene, io penso che Milan possa fare quello che ha fatto la Lazio l'anno scorso, magari stare in lotta per un bel po' e poi fare quarto, ma comunque stare in lotta per un bel po', perché è un campionato in cui non sappiamo se oggi sparisce Cristiano Ronaldo per due settimane, Donnarumma per due settimane, Ibrahim, non sappiamo niente. Appunto, appunto. Ciao Ricky, grazie. Sei ancora convinto alla luce di questa... che lo sapevo. ma non perché io penso che... Non perché io pensi che la Roma adesso arriverà a quarta, perché magari arriva a settima veramente, però questa, siccome quest'estate l'abbiamo discusso, no? Cioè, secondo me la Roma non è detto che arrivi settima, proprio per questo senso di indeterminatezza che c'è in questa stagione, proprio per la quantità di variabili che ci sono, e secondo me anche perché la Roma, rispetto a quando abbiamo fatto quella chiacchierata, questo va detto a beneficio del Pessacchiotto, comunque delle cose le ha fatte, perché comunque ha rafforzato la difesa con un giocatore come Cucurella. Il lodo Trevisani è diventato popolarissimo in questa trasmissione. Tanto... No, è popolarissimo a prescindere, però volevo sentire che ne pensava. A me manca sempre la seconda parte della squadra, cioè non sono gli 11 che mi preoccupano, perché gli 11 possono lottare anche per andare in Champions League, gli 11. Dopodiché, se il Covid che ha preso a Bogà lo prende Dzeko, forse 11 è il piazzamento in classifica. Certo. Hai capito? Certo, perché certo. L'alternativa ai centrali giovani è Smalling, l'alternativa al Dzeko è Borja Mayoral. Il lodo Trevisani rimane in piedi. Tanto devo salutarlo perché ciao Ricky, alla prossima. Volevo parlare con Luca Marelli, che è già in linea, perché ieri sera gli ho mandato un WhatsApp al volo. Ciao Luca. Allora stai lì Ricky. Ciao. Ieri gli ho mandato un WhatsApp al volo, perché quel rigore, siamo sempre sulla partita dell'Atalanta, quel fallo di Gosens su Traoré, io l'ho visto, poi rivisto ancora, ogni volta che lo vedevo mi sembrava meno rigore. È la linea che c'è quest'anno, che in realtà è stata sempre la linea della UEFA e che è diventata anche la linea in Italia. Quello che si vede in campo si giudica, cioè non si interviene più su contatti tra giocatori. Devo dire che è un po' in discontinuità con quello che abbiamo detto nelle ultime settimane, quello che è emerso attraverso i soliti sferi di Ollaia su Giacomelli e su Masca, però effettivamente erano due episodi sui quali di interpretazione c'è poco, oggettivamente. Cioè sono due rigori totalmente inventati, perciò da quel punto di vista si può intervenire, mettiamola così, su episodi 50-50 non si interviene, 60-40, 70-30 non si interviene. Se sono episodi 98-2 come quelli di Milan-Roma, è gioco forza che si debba intervenire comunque. Non mi piace questi stickeri, non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti, so che sarebbe molto più logico che parlassero direttamente i vertici della CAN, non dell'AIA, della CAN, perché se ci devono essere delle sanzioni tecniche per gli arbitri che sbagliano, non vedo per quale motivo debbano essere riportate da giornalisti che comunque sono bravissimi, cioè io lo adoro, non è un amico, un mio amico, ma credo che queste siano comunicazioni che dovrebbe fare l'AIA direttamente, anzi non l'AIA, la CAN, perché gli arbitri a disposizione della CAN devono essere amministrati dalla CAN, non certo dall'AIA. Ma secondo te il senso dell'idea è corretto? Guarda, se il VAR non è la moviola, questo lo sappiamo, dobbiamo metterci un po' d'accordo, dobbiamo pensare che il calcio deve rimanere quello che è sempre stato, con rari interventi del VAR su episodi veramente eclatanti come i rigori di Milan-Roma, oppure vogliamo un VAR che si intrometta molto di più nel gioco, magari interrompendo più volte il gioco per far vedere anche dei contatti che possono essere interpretati. Vi faccio un esempio: Genoa-Inter, Lukaku, la trattenuta su Lukaku di Bani, rigore, 70% delle persone, 30% vede qualcosa che può anche passare. Ieri sera Shakhtar Inter, stesso episodio, molto simile, anche in questo caso il VAR non è intervenuto, perché questa è la linea, cioè dei contatti tra giocatori che possono essere interpretati anche con una maggioranza a favore del rigore o del non rigore, in caso di decisione dell'arbitro rimane comunque quella. Ci può stare, ci può stare, però dobbiamo renderci conto che il VAR interverrà semplicemente per episodi eclatanti. Questo cosa significa? Che però bisogna anche trovare una linea, perché non vedere intervenire il VAR in Milan-Roma e poi vederlo intervenire in Lazio-Bologna per un contattino, tra l'altro visto direttamente da Errati, una delle due non va bene, sì, e probabilmente sì, sì, non va bene nessuna delle due. Si chiama uniformità. Vabbè, ragazzi. Guarda, credo che ci voglia, però mi rendo conto che è sempre complicato perché poi tutto può essere travisato, quindi la butto lì proprio come brainstorming, un po' più di comunicazione. Per esempio il rigore di Lukaku di ieri, insomma, è chiaro che il rigore per me c'è, il VAR non interviene proprio perché la filosofia del gioco è questa, è quello che diceva giustamente Luca, cioè alla fine non tutti i contatti sono quello che proviamo a ripetere, poi sui social ci uccidono pure a noi metaforicamente, se spera, dei cronisti, però ci sono delle situazioni in cui la valutazione di un contatto spetta all'arbitro e rimane una sua prerogativa e un suo dovere. Poi certo, tante volte questa valutazione non convince. Certo. Quindi questo elemento qua, però sarebbe utile saperlo. Per esempio, io l'altro giorno appunto ho commentato in Rati Lazio-Bologna, dove c'è una spinta, una trattenuta che poi porta al gol del Bologna, tant'è vero che poi non ci sono state neanche particolari proteste, però da un punto di vista di casistica di regolamento, il fatto che sia intervenuto il VAR e ci sia stata una review in campo, lascia pensare veramente che Errati non avesse visto niente. Perché se invece ha visto, se ha visto e dice che quello non è fallo, poi è abbastanza strano che cambi idea 5 secondi dopo. Quindi voglio dire, fermo restando che la frattura poteva stare, nessuno protesta, e alla fine forse meglio si così. Si chiama comunque uniformità di giudizio. Ragazzi, devo fermarmi per la borsa. Ringrazio Luca Marelli, che ritroviamo domenica, Riccardo Trevisani, che ritroviamo il prima possibile. Ci fermiamo un attimo, torniamo sempre con Pierluigi Pardo e con Filippo Maria Ricci. Trevisani for President, assumetelo, vi prego! Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Comparec avui per comunicar la meva dimissió i la de la resta de la junta directiva. És una decisió meditada, serena i acordada per tots els companys. Niente da fare per Ronaldo, anche l'ultimo tampone ha dato esito positivo. Dunque, per rivedere uno contro l'altro i due calciatori più forti del mondo, bisognerà attendere il ritorno al Camp Nou dell'8 dicembre, ultima partita del girone. Ma Messi fa parte della storia del calcio mondiale, moderno. Lui e Ronaldo stanno facendo cose straordinarie da mai 15 anni. Questi giocatori vanno trattati in modo diverso e sperando sempre che non siano nelle serate migliori. Allora, per Luigi vorrei chiederti un consiglio. Dato che c'è Filippo Maria Ricci, voglio chiederti se preferisci partire da Real Dallas o dalla Dynasty Blaugrana. È uguale. Uguale, allora facciamo scegliere a lui. Vai tu, sì. Filippo, ciao. Ciao. Filippo? Si è spaventato e andato via? Non gli è piaciuto. non gli è piaciuto. Abbiamo argomento, dai, non è un problema. Parliamo di altro. No, assolutamente no. Adesso ci ricolleghiamo con lui. Voglio parlare con Filippo Maria Ricci, con Pardon. Buongiorno, Filippo. Hola. Eccolo qua. Pomeriggio? No, ciao Phil. Lasciavamo ciao, a te la che scelta. No, non ti abbiamo sentito più, però lasciavamo a te la scelta tra, come punto di partenza, tra Real Dallas e Dynasty Blaugrana. sì, ma io mi sentivo benissimo, però nessuno. Non pensavo di dover intervenire così. senza essere salutato. E non avevamo pagato la bolletta, abbiamo pagato al volo adesso. Va bene, allora da cosa partiamo? Dimmi tu. La cosa più bella, avete mandato quel pezzettino che è bellissimo, quando dice una decisione meditata. Sì, il giorno prima aveva detto non vedo ragioni di dimettermi. Cioè, ci ha pensato quel quarto d'ora, 20 minuti. Sì. No, 24 ore, diciamo, è diventata una storia incredibile. Comunque, prima cosa, è bello comunque pensare che nel calcio, anche moderno, milioni, tutto quello che vuoi, c'è ancora un club, no, che ha il suo presidente che si dimette, adesso ci sono le elezioni, la giunta direttiva, no, elezioni anticipate. Per me ha ancora parecchio fascino. Poi non lo so, insomma, è abbastanza interessante che pensare che uno dei grandi club, diciamo, del mondo, adesso è senza il governo, c'è appunto una giunta di gestione, porterà adesso i candidati, ci sono 5, 6, 7 candidati, devono presentare delle firme, devono portare anche una fiducia enorme e poi la gente voterà, insomma, mi sembra è una cosa... Per me è ancora molto molto notevole. Sì, ma non si può farla veloce e chiedere a Messi? Chi vuole? o farlo direttamente diventare presidente. Bravo, esatto. Presidente, allenatore e giocatore, no? Sì, secondo me è una buona idea. Quello sarebbe, forse la soluzione più semplice. Sì, sì, poi anche visto quello che guadagna, magari così rientrano di qualcosa. Appunto. Spalma un po', esatto. Spalmano. Una serie di stipendi, capito? Risparmiati. Io farei così, sì, sì. Vedremo perché... Ma sai, sono curioso anche di vedere, Pier, nella partita che racconterai stasera, se tutta questa giostra qui avrà effetti sul campo. Ma sai, stasera è veramente, infatti voglio sentire Filippo su questo, stasera è veramente una partita meravigliosa dal punto di vista ovviamente della storia e anche della qualità delle squadre. Prima Filippo ricordavo che insomma l'assenza di Ronaldo si priva di una sfida da 1449 gol in carriera in due. Che Ricci ha visto quasi tutti. Questi sono i numeri dei due ragazzetti, quindi però sapete, Cristiano non c'è. E la Juve ha i suoi problemi, ovviamente, ha la sua fase di transizione e ha ovviamente l'assenza di Cristiano Ronaldo, che non è un dettaglio. Ma se guardo la formazione del Barcellona, se guardo soprattutto la difesa del Barcellona di stasera, beh, insomma, dei margini per sperare ci sono. Come, no? Sì, è una partita apertissima questa, può finire, io non mi azzardo a fare un pronostico, insomma, il Barcellona ha fatto un punto nelle ultime tre partite di Liga, insomma, ha perso 3-1 in casa con il Real Madrid, che diciamo, è già stato battuto dallo Shakhtar, e ieri un'altra volta ci lascia le penne col Borussia Mönchengladbach, insomma, è un Barcellona molto... così fragile, e tanto dipende da Messi, a meno che stasera non voglia festeggiare l'addio del nemico Bartomeu, e fa una tripletta e tira fuori anche la maglietta, capito? Ciao Bartomeu, non lo so, insomma, ecco. Però è la difesa con Araujo e Lenglet, insomma, non è proprio una coppia incredibilmente affidabile, e poi bisogna vedere chi gioca terzino destro tra Sergi Roberto e Dest, e Jordi Alba è appena rientrato, quindi insomma in difesa il Barcellona, anche la Juve ha i suoi problemi, ha le sue grane, appunto stavo dicendo io. Sì, per cui è una partita molto aperta, molto, insomma, spero che sia spettacolare, perché questo mi sembra l'unica cosa importante, e poi ovviamente che vinca la Juve, perché cioè, le squadre italiane hanno bisogno di andare bene in Champions, e così c'è curiosità di vedere in che condizioni si presenta Messi. Nel classico ha fatto abbastanza bene, diciamo, per un'ora, poi si è diluito, è un po' sparito, è un po' mezzo depresso, insomma, non è proprio in forma fino a ieri sera. Sì, Messi, lo ricordiamo, l'anno scorso ha fatto 31 gol, 7 gol dopo il lockdown, però non segnava così poco dal 2007-2008, cioè no, ma stiamo parlando. Sì. Questi 7 gol dopo il lockdown, mi sembra che 4 siano a palla inattiva. E adesso i due che ha segnato quest'anno sono due rigori. Adesso vado un po' a memoria, però diciamo post lockdown mi pare che abbia solo 3 gol su azione, e, insomma, che per lui non è niente, lo so, cioè, avrà segnato di più Sergio Ramos, insomma, ecco. In porta c'è Neto che esatto. È un ex della partita, che è stato il vice di Buffon, e che adesso, insomma, non c'è Ter Stegen, che non si vede da metà agosto in Champions League, quindi insomma devo dire Sì, una partita, diciamo, per me, niente, per me la, però, Juve, la Juve è leggermente favorita, insomma, ecco, non so se leggermente o però insomma, io vedo la Juve favorita, però è appunto difficile da pronosticare, perché come al solito quando parliamo di Messi non sai mai come va a finire, insomma, ultimamente, ecco, stupisce meno, incide meno, quindi però sono quelle cose che hai sempre paura a dire, perché poi, ecco, trova la serata, no, ma chiaro, ma poi soprattutto può accendersi all'improvviso in una notte di Champions a maggior ragione. Non a caso il Barcellona l'unica volta che probabilmente ha dilagato quest'anno è stato al primo giro di giostra in Champions. Ragazzi, traffico e torniamo, perché abbiamo anche quell'altro argomento da affrontare, e che sintetizzerei con Casemiro: è sempre lui l'uomo della provvidenza. Juventus Barcellona va rinviata, perché io ho pagato un abbonamento televisivo per vedere le migliori formazioni in campo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Quanto a quel WhatsApp, sarebbe interessante la formazione con il televoto in tempi di Covid, Pierluigi. No, è vero, però insomma è chiaro che stasera la partita perde tanto, vabbè, però è sempre Juve-Barcellona, e io sono d'accordo con Filippo, poi non bisogna mai esprimere un pronostico, anche perché la quantità di variabili è totale, però io penso che questo Barcellona, sto preparando la partita, guardando il momento, questa è la squadra, al di là del fatto che in questo momento è tecnicamente parlando, sia due partite in meno, ma è dodicesima in Liga, quindi però insomma è dodicesima, ecco. Questo è un dato oggettivo, è una squadra che sta faticando tantissimo a esprimere il suo talento, insomma, che aveva cominciato tutto sommato anche abbastanza bene, perché adesso è in difficoltà, quindi poi è un test anche di maturità, secondo me, per questi ragazzetti. Sai che in Barcellona Ferencváros per la prima volta nella storia della Champions League sono andati a segno due minorenni, sì, diversi, che sono Pedri e Ansu Fati, e Ansu Fati sta diventando una cosa grande, quindi le variabili sono tante, però anche se io faccio tifo per Pedri, che è diventato il mio idolo da quando è andato a casa con la borsa della spesa, taxi, la borsa di plastica, massimo. Non so se gioca, vediamo, c'è un dubbio tra c'è una maglia lì che balla tra lui, Trincao, Dembélé. Non lo so, perché poi l'altro giorno si è un po' scottato, la forza di giocare con due 17enni nel classico Pedri si è un po' scottato. E poverito. Tu cosa dici? Senti, ma invece Casemiro che salva il Real Madrid in casino al girone dell'Inter, vabbè, ma questi sono discorsi collaterali. Casemiro, uomo della provvidenza di Zidane una volta di più, così. E poi Benzema e Mendy, queste cose mi appassionano da morire. No, ah, quel video fantastico, con fantastico. Spogliatoio, questo Benzema intrigo, che dice intrigo di fuori pazzi. Onda. Benzema che ma dice a Mendy, qualcuno è riuscito a sentire perfettamente no, purtroppo no, io ho visto non i sottotitoli, però insomma sì, non è così chiaro, però sembra, perché intanto la versione francese è un pochino più chiara, perché quella che gira qua in Spagna non si capisce niente, hanno messo i sottotitoli, però un po' così, no, non si riesce la frase c'è più o meno, poi non si capisce bene chi la dice, e voglio dire, che io perché dico si fosse cosa. Messo solo ora all'ascolto Benzema che dice sì. Benzema che dice a Mendy va a Vinicius non passare la palla perché lì si gioca contro, quindi meglio se non la palla non daglia. Però allora io dico una cosa, se anche fosse vero, è che Vinicius ha un grandissimo sorriso ed è anche un buon giocatore, però effettivamente sembra un corpo estraneo, fa delle cose strane, gioca un po' in maniera un po' arruffona, ha del talento, poi a parte che ha una mira veramente al momento incredibile, cioè non ne becca una, cioè la palla che ieri a un certo punto, cioè, secondo me il casus belli è che Benzema gli dà un pallone d'oro e lui lo svirgola come neanche nei video della Jalapas, insomma, e capisco che Benzema ha giocato per 10 anni con Cristiano Ronaldo, adesso accanto c'ha Vinicius e può anche lamentarsi, insomma, per me ci sta, in un campo da calcio se uno ha giocato. A me l'hanno sempre dette di tutti i colori, insomma, ecco, cioè, vuol dire, sì, ma non giocavi nel Real Madrid, mi pare. No, certo, no, però è uguale, a tutti i livelli, anche a Real Madrid c'è uno più forte e uno meno forte, e quello meno forte ogni tanto la strigliata se la prende, e per me ci sta, insomma, sono cose di campo, che io le voglio dire, la frustrazione di Benzema per me ha delle radici, ha delle basi, ha un fondamento. Sarà che è abituato a giocare in una squadra un po' diversa da quella di adesso, che potrebbe addirittura finire fuori nella fase a gironi della Champions League, cosa fantascientifica. Mai successa, ovviamente mai successa. Noi ce l'auguriamo perché questo girone c'è l'Inter, no? Ma ce l'auguriamo? Vuol dire, a Valdebebas adesso martedì prossimo c'è questo Real Madrid-Inter, che è una partita trascendentale, insomma, e poi dopo, subito dopo, c'è il ritorno, per cui vediamo come va. Però ecco, ti dico che Benzema si lamenti perché il compagno sbaglia, ci sta. Io ho visto anche Messi, insomma, l'ho visto parecchie volte, l'ho visto, diciamo, come devo dire, deluso tra virgolette per certe performance dei compagni. Se sbagli, se tu sei abituato a giocare con Xavi Iniesta, poi viene uno che ti tira una pietra invece che un pallone, magari dice scusa, cioè, però non va bene. No, ma può starci di tutto in questo romanzo d'appendice che è la stagione 2020-2021, forse vediamo come va, Pierluigi. Ci sta, dai. Adesso però io il caso lo voglio, insomma, dai, ci sarà qualche immagine un po' più chiara del sì, sono quelli del gate, in Francia, devi guardare i video della Francia che sono già bloccati. L'ho visto quello di RMC, no? Sì, di Telefoot, sì. Telefoot. Che poi era divertente perché li hanno presi in giro questi di Telefoot, tutti i francesi, e dice: no, ma qua c'avete questo video bellissimo di un'altra squadra, però sullo scontro di Neymar con lo spagnolo lì non avete tirato fuori nessun video. Vedevo che facevano polemica sul tema. Ma è stato Bartomeu, è chiaramente un fake orchestrato da Bartomeu come regalo di addio al Barça. No, poi tra l'altro dicevo, stagione che sembra un romanzo d'appendice, tra l'altro stasera, Pierluigi, oltre alla Juventus c'è la Lazio che va a Brugia in minimi termini, a proposito di formazione migliore. Questa è un'altra storia veramente incredibile di questo inizio di stagione, ed è doppiamente un peccato, perché poi la Lazio, che per me, lo sai, ha 8548 qualità ed è una squadra fortissima nei 14-15 giocatori, è una squadra che, se ha un punto debole, perlomeno l'anno scorso ce l'ha avuto e si è visto nel post lockdown, è la panchina, che non è così profonda come potrebbe essere, come dovrebbe essere. A parziale consolazione, diciamo che oggi forse affronta una squadra che potrebbe anche essere la partita nella quale riesce anche a cavartela in questo modo, però certo, poi non cancelliamo l'aspetto anche strettamente psicologico, perché comunque questo vale un po' per tutti, perché tutti fanno tamponi, tutti fanno continue analisi, ci sono colpi di scena continui, però insomma questa cosa non va trascurata, no? Così come l'altro giorno sottolineavamo la prestazione di Tatarusanu, al di là del fatto che Donnarumma è un'altra cosa, però è anche ovvio, evidente, che vieni a saperlo all'ultimo istante. Certo. Insomma, vedo la formazione della Lazio di oggi e chiaramente non è la stessa cosa, perché due giocatori come Immobile, Luis Alberto, è quasi impossibile riuscire a regalare gli altri. Luis Felipe, che era stato fatto riposare l'altro giorno e sarebbe stato sicuramente titolare, insomma, lei è un giocatore importante. Ma questa è una variabile con cui dobbiamo fare i conti in Italia, come in Spagna, come nel resto del mondo, per tutto il resto della stagione, ed è per questo che questa stagione in particolare è impossibile da leggere. Non ci riesce nemmeno Filippo Maria Ricci in spagnolo, che ringrazio. Alla prossima, Filippo. Grazie, ciao. A voi. Ciao anche a te, Pierluigi, a Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ma tutti convocati qui domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!